Ehi, ti ha mai detto nessuno che penso sempre a te, che per farti dormire mi tolgo il sonno per te e per scaldarti le mani calore non ho più, i denti tuoi sono sani perché i miei cadono giù. E per farti felice cerco conchiglie per te, ma tu sarai la più bella dentro me. E poi dovresti sapere che non respiro mai, ma non riesco a morire perché tu ancora non sai che il giorno dalle mie vene verso il mio sangue poi per te faccio candele. Al buio più non sarai e mai più avrai paura perché io tremo per te. La tua fatica già suda dentro me. Ti accorgerai che non respiro, che non c'è luce nei miei occhi e ti cielo in cui non guardi mai, siedi all'ombra del melo, forse da lì lo vedrai. Io non l'ho detto a nessuno, tu non parlare mai, ma se hai un filo di voce fa che non si spezzi mai. Per me venga la notte, ma sia mattino per te. Mi basterà d'essere stella dentro te.